Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, benvenuti a Restiamo Animali, è la puntata numero 165 di domenica 30 marzo 2014. Al microfono c'è Lorenzo Guadagnucci, portavoce oggi di una redazione composta anche da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni. Tutte le nostre puntate sono realizzate grazie al contributo tecnico di Francesco Azzurri e con la consulenza musicale di Giona Vinti e di Lorenzo Ranfagni. Nel sommario di questa puntata troverete la terza storia di resistenza animale, dedicata questa volta a un gruppo di gorilla del Ruanda. Una storia che è commentata da Marco Reggio, di Oltre la Specie. Per la rubrica di attualità Animal House, vi proporremo un servizio sul recupero di 99 tartarughe sopravvissute faticosamente in alcune vasche pubbliche nel Parco delle Cascine a Firenze e portate in salvo grazie all'interessamento di alcuni cittadini, della nostra trasmissione, di volontari animalisti e degli enti pubblici in un luogo più adatto, in una sorta di rifugio sul lago Trasimeno. In aggiunta, Roberta Marino da Milano ci racconterà com'è andato quell'importante convegno che si è tenuto nei giorni scorsi in materia di vivisezione, con un confronto faccia a faccia tra importanti interlocutori del mondo scientifico vivisezionista e del mondo animalista antispecista. Gabriele Palloni, in questa e nella prossima puntata, ci darà dei suggerimenti per preparare un sontuoso pranzo pasquale cruelty free, un'alternativa concreta che vi proponiamo affinché possiate salvare dalla sorte infame che gli tocca in questo periodo gli agnelli e gli altri animali ingiustamente sacrificati sulle tavole per questa ricorrenza, diciamo così, religiosa. Gabs comincia con un bellissimo, originalissimo piatto di lasagne. Avremo poi Valentina Reggioli, che si esibirà, è il caso di dirlo, in una recensione di una canzone vegan e animalista del grande Prince. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Hanno distrutto una trappola e poi si sono fiondate su un'altra lì vicino, facendo a pezzi anche quella. Si chiamano Ruema e Ducore e il loro compagno che li ha aiutati, Tetero. No, non è come pensate. Non sono tre attivisti di un campo antibracconaggio alle prese con archetti, reti, tagliole o simili. I sabotatori in questione sono proprio gli obiettivi delle trappole dei cacciatori. Rispettivamente un maschio e una femmina di gorilla, entrambi di 4 anni, del Parco Nazionale dei Vulcani in Ruanda, e un altro giovane gorilla come loro. A Ruema e Ducore non sono servite pinze, coltelli, forbici o altri attrezzi. È bastata la loro rabbia. Le è bastato vedere morire una loro compagna, uccisa da una di quelle trappole mortali a laccio, fatta di rami e corde, che i bracconieri disseminano a migliaia nel parco per catturare antilopi e altri animali, ma che a volte finiscono per imprigionare e ferire gravemente anche quelli come loro. Anticipando l'intervento del battitore che stava per disattivarla, si sono messi a correre verso la trappola, decisi, determinati. Ruema è saltato su un ramo piegato e l'ha spezzato, mentre Ducore ha liberato il cappio. Poi hanno individuato nelle vicinanze un'altra trappola, sfuggita anche al battitore, e assieme a Tetero hanno distrutto anche quella. Astuti, ingegnosi, sicuri del fatto loro, così li hanno definiti gli studiosi del centro Carisoche fondato da Diane Fossey, che hanno assistito increduli, ma nemmeno troppo, alla scena. Hanno visto cosa c'era da fare, l'hanno fatto e se ne sono andati, dicono. Qualcuno aggiunge, sarebbe grandioso se fossero in tanti a sapere come fare, ma non possiamo insegnare loro come si fa. Per quanto è possibile, cerchiamo di non interferire con la loro vita, non vogliamo influenzare il loro comportamento naturale. Nessuna ingerenza è giusto, del resto forse loro già lo sono, sabotatori per natura. Questa storia dei gorilla che distruggono le trappole è interessante ovviamente perché i gorilla distruggono le trappole e questo di per sé è una cosa stupefacente. Semplicemente c'è un'idea del fatto che gli animali abbiano una cultura e questo noi non siamo abituati a pensarlo, perché pensiamo spesso che gli animali siano natura, al massimo che esista in qualche modo una cultura legata a una specie. Qua invece vediamo proprio delle culture, cioè ci sono dei gorilla di un luogo che sanno fare una cosa, che hanno imparato a fare una cosa sorprendente che altri gorilla, quindi membri della stessa specie in altri luoghi, non hanno imparato assolutamente a fare, probabilmente non impareranno mai a fare, perché probabilmente perché non ne hanno bisogno. E quindi ci sono proprio delle vere e proprie culture animali, proprio come ci sono le culture umane delle varie, dei vari luoghi e dei vari tempi. Questa poi a noi può sembrare una cosa sorprendente, per altri versi non lo è, perché per l'etologia cognitiva ormai da qualche decennio, da qualche anno in particolare, è una cosa, se vogliamo, anche più banale. E poi sul piano politico questo dà l'idea proprio di una possibilità di collaborazione tra umani e animali, cioè tra umani e quegli animali, perché qui ci sono proprio degli umani che hanno un obiettivo simile, no? A quello le guardie, diciamo, che andavano a distruggere effettivamente le trappole dei bracconieri, hanno lo stesso obiettivo dei gorilla che si mettono a distruggere le trappole dei bracconieri e che, secondo l'ipotesi anche del veterinario del luogo, hanno imparato proprio osservando degli umani che lo facevano. E è interessante che anche chi si rende conto di questa cosa, chi ha gli stessi interessi, diciamo, cioè di andare contro i bracconieri, non prende del tutto sul serio gli animali. Il giornalista dice proprio che il veterinario dice sarebbe grandioso se fossero in tanti a sapere come fare, scherza il veterinario. Quindi anche il veterinario che ha capito questa implicazione di fatto scherza, cioè non le prende del tutto sul serio. Anche la visione, come dire, culturale degli animali, non essenzialista, che potrebbe portare a un'alleanza con gli animali, è contraddetta dagli stessi umani buoni, tra virgolette, diciamo, cioè quelli del centro di studio e conservazione dei gorilla, del parco naturale, che riportano ancora in qualche modo la vicenda a una visione essenzialistica degli animali. Pensiamo che il responsabile, per esempio, ha dichiarato ai giornali che istruire direttamente i gorilla a distruggere le trappole andrebbe contro l'etica del centro di ricerca. A parte che, diciamo, un'espressione di questo tipo sembra quasi che questa etica del centro di ricerca sia una specie di dogma, in sostanza qualcosa di misterioso scritto nelle tavole della legge che non si può assolutamente violare neanche quando i gorilla stessi, cioè gli attori in gioco, ci sorprendono. E poi dice testualmente: non possiamo insegnare loro come si fa, per quanto è possibile cerchiamo di non interferire con la loro vita, non vogliamo influenzare il loro comportamento naturale. Quindi ancora, di fronte a un comportamento chiaramente culturale, c'è di nuovo l'idea di un comportamento naturale che in qualche modo rientra dalla finestra e impedisce anche di collaborare più di quanto già comunque non avvenga tra gorilla e umani. Questo è comprensibile per certi versi, perché ovviamente l'interferenza umano-animale, che qui è stata sempre vista e esperita sia dai gorilla che dal veterinario, dal direttore del centro, eccetera,

Il titolo genera grandi aspettative. Animali in laboratorio, un dibattito tra scienza, etica e politica. Le aspettative crescono poi quando si scopre che il dibattito da interno, come sembrava fosse, è invece aperto al pubblico. E gli animi si accendono a tal punto che la sala destinata a 180 spettatori si riempie fino a 200, con decine di persone, tra cui ahimè anche la sottoscritta, fuori in attesa di entrare. Scatta così la polemica per l'organizzazione. Solo l'ennesimo di questo evento che sarà ricordato anche proprio per la mole di polemiche, prima e dopo, più che durante il dibattito stesso. Prima fra tutte l'annosa questione dell'antivivisezionismo etico versus antivivisezionismo scientifico, che continua a dividere il movimento animalista e antispecista. Finalmente tutti riescono a entrare. Purtroppo alcuni relatori, esponenti di proteste, Carlo Prisco, hanno già parlato, ma fortunatamente la registrazione video del dibattito fornita dall'associazione Animalisti Onlus riesce a colmare questa lacuna. Uno per uno gli ospiti prendono parola in una battaglia di cifre, di dati e di ragioni valide tra pro e antitest. Ma al di là dei numeri e delle opinioni certamente già ben note sul tema di ogni relatore, è sui tre argomenti del dibattito che è interessante soffermarsi: scienza, etica e politica. Scienza. Per i protest viene prima di tutto. Talmente prima di tutto che per il dottor Ferrari è lo scopo scientifico a definire la sperimentazione animale. I disagi, così li ha definiti, che ne possono conseguire per gli animali stessi sono collaterali. Per la dottoressa Collino lo scopo scientifico diventa talmente importante da arrivare a vedere, e c'è da pensare che lei lo creda davvero, la gatta Double Trouble, le cui immagini ormai hanno fatto tristemente il giro del mondo, con gli elettrodi impiantati nella calotta cranica, come una gatta qualsiasi che si toiletta e gioca. Come vedete, la gatta ha il gruppo di elettrodi, ma non sembra accorgersene, afferma convinta, strappando una fragorosa risata e un boato nella sala. Non paga per rafforzare la sua tesi, poi incalza: posso spiegarvi perché non sente male? Perché non ci sono i recettori del dolore nel cervello e non può sentire male. E alla risata segue così un grosso applauso per aver ammesso quello che tutti già sospettavano. Inevitabile la risposta di Carlo Prisco della LAV, che a suo turno, quando prende la parola, suggerisce a tutti di mettersi in lista per farsi mettere degli elettrodi nel cranio, perché tanto se ne possono trarre solo benefici e giovarne di salute. Ed è proprio Prisco a introdurre il tema dell'etica. L'etica, dice, non solo non può essere subordinata alla pratica, ma nemmeno contemperata ad essa. E inoltre, citando un vecchio adagio, i propri diritti finiscono dove iniziano quelli altrui, solleva la questione della differenza che da sempre giustifica la discriminazione tra chi gode di diritti e chi è oggetto di diritti altrui. Il tema dell'etica è stato al centro dell'intervento di Massimo Filippi, che non ha inteso dare risposte ma avviare una riflessione sulla base di alcune domande aperte. Partendo da un presupposto differente e non umano, ma guardando con gli occhi dell'inerme, si chiede: che cosa si nasconde dietro il concetto di utilità? La ricerca è utile a chi? Cosa vuol dire che è utile all'umanità? Per quale umanità è utile, se non lo è per tutti? Esiste un'umanità? E quali operazioni hanno portato l'uomo al centro dell'universo? Un intervento profondo e al tempo stesso sottile, al termine del quale conclude che l'umanità è un costrutto culturale in cui l'uomo con la U maiuscola è in realtà l'uomo maschio, bianco, istruito, occidentale, parte della civiltà dell'opulenza che ha creato le patologie come il tumore e il diabete, dei quali parlerà poi Silvio Garattini elogiando i successi della sperimentazione. Ed è solo questo uomo con la U maiuscola il fruitore di quell'utilità. Citando proprio Silvio Garattini, il cui intervento l'ha preceduto, dice: mi fa piacere che il professor Garattini abbia detto che la scienza è in continuo perfezionamento. Infatti è influenzata dai processi storici, politici e anche dall'etica, con la quale, aggiunge, si sono fatti anche molti errori. Ma per Garattini l'etica è ben altro. L'etica universale, dice, in pratica non esiste. E questo spiegherebbe molte cose. O meglio, ognuno ha le proprie idee di etica e le esprime in maniera personale. L'unica etica della quale il direttore del Mario Negri desidera parlare è quella che, a suo dire, non viene rispettata dagli animalisti quando non lasciano parlare i ricercatori e li cacciano dai dibattiti. Per quanto riguarda l'idolatria della scienza, già si conosceva la posizione di Silvio Garattini. Il dibattito è stato solo l'ennesima occasione per propagandare i successi compiuti dalla medicina, suona di slogan come «ci sono altri metodi per la ricerca, ma noi non possiamo aspettare che vengano perfezionati perché c'è ancora tanta gente che muore di tumore». Certo, specifica, non è che tutto quello che succede sull'animale sia paragonabile all'uomo. La scienza è un'attività umana imperfetta e noi tolleriamo anche i rischi. In futuro ci saranno sempre farmaci migliori, dice, dichiarandosi in uno simoro al di là dell'incredibile nemico storico dell'industria farmaceutica. Infine, affermando con orgoglio che è grazie alla sperimentazione animale e non agli antispecisti che la sperimentazione animale stessa è diminuita, conclude con un paese lapsus freudiano che, per lenire le sofferenze della gente, sarà comunque necessario continuare a fare, attenzione, sperimentazione umana. Ma poi si corregge, ops, animale, anche se sì, quella umana deve essere fatta. In questo groviglio di etica e interessi politici e economici si inseriscono netti e decisamente scientifici i dati esposti da Massimo Tettamanti sull'inutilità e sul superamento dell'uso del modello animale nella ricerca. Un modello che per la sua incompletezza e arbitrarietà ben si presta a essere strumentalizzato a seconda delle circostanze e che resta in voga, dice, non per ragioni scientifiche. Un esempio per tutti. Si sa che il fumo è causa di formazione di tumori, ma le ditte stesse si sono da sempre difese asserendo che nel corso dei test sugli animali il fumo non ha causato danni. Gli effetti, ricordo ancora una volta Tettamanti, sono assolutamente specie specifici e solo lo 0,004% degli esperimenti sugli animali porta a uno studio clinico, mentre resta sempre necessario sperimentare sull'uomo. Non a caso la stessa Glaxo effettua sperimentazioni sui bambini in Africa. Un metodo usato da 150 anni, ma che nel 2014 deve essere superato, perché è inefficace, perché il metabolismo cambia, come ha ben detto, aggiunge strappando un applauso, già 30 anni fa il professor Garattini. E conclude con un esilarante esempio che rende bene l'idea di quanto siano inaffidabili i dati ottenuti con i test sugli animali. La diossina per il ratto è mortale, mentre se viene somministrata a un criceto, quest'ultimo sta da Dio. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little... Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of it. Pasqua è alle porte e, come si dice, se la chiami arriva. Quindi sto pensando ad un menù vegan che renda questa festa cruelty free. Intanto si potrebbe iniziare con un bel crostino toscano a base di okara, la cui ricetta potete recuperarla nel blog e nei podcast di Restiamo Animali. Poi in questa puntata vi darò un'idea per un primo piatto originale e gustoso, mentre lasciamo alla prossima il piatto forte del dessert. La ricetta di oggi è quella delle lasagne di pane Karasau con asparagi e besciamella allo yogurt di soia. Queste le dosi per 4 persone. 6 fogli di pane Karasau, un mazzo di asparagi freschi, 1 o 2 scalogni, mezzo litro di latte di soia non zuccherato, 200 g di yogurt di soia al naturale, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di curcuma, 80 g di farina, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie e 50 g di mandorle a fette. Per iniziare, lavate gli asparagi, togliete la parte finale, quella più dura, e tagliateli a rondelle sottili. Lessateli in acqua salata, lasciandoli abbastanza croccanti. Scolateli senza gettare l'acqua di cottura, nella quale farete bollire la parte più dura degli asparagi, quella che solitamente si getta. Lasciate cuocere per un quarto d'ora circa, togliete i gambi, che potete gettare a questo punto, e conservate l'acqua di cottura. In una casseruola scottate lo scalogno tagliato a fette sottili, prima con un bicchiere di acqua e poi aggiungete un filo di olio extravergine di oliva. Lasciate rosolare per qualche minuto e unite gli asparagi. Lasciate insaporire, aggiustate di sale e pepe e poi sfumate col vino bianco che lascerete evaporare bene e dopodiché spegnete il fuoco. A parte fate scaldare 3 cucchiai di olio extravergine di oliva con la curcuma e la farina. Fate imbiondire leggermente e poi aggiungete il latte di soia precedentemente intiepidito e l'acqua di cottura degli asparagi. Mescolate bene aiutandovi con una frusta e lasciate cuocere a fuoco lento fino ad ottenere una besciamella non troppo densa. Aggiustate di sale e unite lo yogurt di soia. In caso la besciamella fosse venuta troppo densa, potete aggiungere ancora del latte o ancora, se vi è rimasta, l'acqua di cottura degli asparagi. A questo punto mettete un velo di salsa in una teglia da forno e coprite col pane carasau. Aggiungete gli asparagi alla besciamella e coprite il pane carasau con questa salsa. Poi alternate ancora altro pane e così via come per una tradizionale lasagna. Alla fine spolverate con del lievito alimentare a scaglie e qualche mandorla a fette. Cuocete in forno mettendo la teglia abbastanza vicino al grill per 20 minuti a 180 gradi. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Questa volta parliamo di Prince, cantante, chitarrista, polistrumentista, compositore, produttore discografico, attore, regista, sceneggiatore statunitense e convinto animalista, tanto che nel 2006 è stato riconosciuto come vegan più sexy dell'anno, quello che la prestigiosa rivista Rolling Stones ha messo al 27° posto nella lista dei 100 migliori artisti di tutti i tempi. Quello per capirsi che ha all'attivo 35 album pubblicati. Quello per finire che urlava "In a particular style, I'm more compatible with, I just want your extra time in your barabarabarabam kiss". In particolare citiamo uno dei suoi album del 1998, Crystal Ball, in cui compare il brano Animal Kingdom, in cui l'artista spiega i motivi della sua scelta animalista e vegan. Tra l'altro, non è l'unico pezzo che affronta un tema animalista. Nell'album Rave and Two, The Joy Fantastic del 1999, l'artista spiega perché non è etico indossare lana e quanta sofferenza la tosatura degli agnelli abbia dietro. Ma torniamo ad Animal Kingdom. La canzone comincia con Prince che risponde ad un amico onnivoro, e chi non ne è uno, riconosciamolo, che gli consiglia cosa mangiare per stare bene. Sapeste quanti amici che si scoprono dietisti ho non appena confesso di essere vegan? Allora Prince gli risponde: se Dio volesse latte in me, il petto che succhio avrebbe una linea attorno al capezzolo. Nessun animale dal latte diventa vecchio. Nessun membro del regno animale mi ha mai fatto del male. Questo è il motivo per cui non mangio carne rossa o pesce bianco, e non datemi formaggio blu. Siamo tutti membri del regno animale. Lascia i tuoi fratelli e sorelle nel mare. Chi ci ha detto che dobbiamo mangiare maiali? E che mi dici dei molluschi? Anime in divenire, ma ecco che arriva il pescatore e non ci sono più anime. Nessun animale dal latte diventa vecchio. Nessun membro del regno animale mi ha mai fatto del male. E questo è il motivo per cui non mangio carne rossa o pesce bianco. E non datemi del formaggio blu. Buon ascolto. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog, che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@conservato.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.